Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. La giovane locandiera è intanto in trepida attesa dell'arrivo del postino. I tenui fili sentimentali si congiungono. La cartolina tanto attesa giunge dopo un lungo viaggio a sua destinazione e il postino, complice bonario, eludendo la vigilanza paterna, trova sempre il modo di consegnare clandestinamente le missive del caporal maggiore. Accettare un sigaro è certo contro ogni regolamento postale, ma rifiutarlo sarebbe un vero delitto. Ligio al suo dovere e vincendo la tentazione di un buon bicchiere di birra, il postino prosegue il suo giro. A compimento del giorno giunge in un povero maso una lieta e inaspettata notizia. Una lettera, una assicurata da parte del figlio, con qualche piccolo risparmio per la madre lontana. La nostra percezione del reale ha delle sfumate molto lente. Questa mattina sto osservando la nostra sigla che mi va in sottofondo e ancora non capisco perché la sto continuando a sentire, ma è la lenta sfumata della sigla che se ne va. Sto osservando i messaggi che già mi arrivano via Facebook, gli SMS, i primi tweet, e mi sto rendendo conto però ancora esiste qualcosa dell'aspetto arcaico della comunicazione legata a uffici postali, legata a lettere, legata a necessità comunque di avere un supporto concreto della propria corrispondenza. Beh, non so quanti lo sapranno, ma in questi giorni si sta ricordando i 150 anni delle poste italiane. Non è roba da poco, non lo assimilate immediatamente ai mille disagi, ai luoghi comuni, ai borbottii degli anziani in fila per la pensione che ti rubano sempre il posto, alle soliti improperi collettivi nei confronti degli impiegati che stanno al di là del vetro. Ecco, tutto questo, diciamo, è l'ultimo strascico di un mondo che in realtà ha rappresentato una grossa innovazione per il nostro paese. L'Italia non a caso era stata appena fatta e l'anno dopo si pensò di fare la riforma che avrebbe istituito un servizio postale unico. Sì, perché prima del 1862, perché il 5 maggio ci fu la legge che fece le poste, in Italia era una sorta di caos, c'erano i corrieri, c'erano delle agenzie private che facevano questo lavoro, dovevano girare con delle guardie armate perché naturalmente la corrispondenza conteneva anche beni spendibili. Poi finalmente ci fu un servizio unico. Beh, di questo parleremo questa mattina. Parleremo del vecchio e antico, ma ancora attuale per molti, mondo delle poste, quanto ha significato per il nostro paese, quali sono stati i passaggi fondamentali, affidandoci anche a quello che è il vostro ricordo. Quanto ancora avete legato stralci della vostra vita, momenti della vostra emozione, all'attesa di una lettera che deve arrivare o alle attese che si ponevano in una lettera che si scriveva? Beh, questo mi rendo conto che per i nativi digitali è qualcosa che non appartiene più alla loro realtà, ma per molti probabilmente ha una concreta maniera di essere evocato questa mattina. 800240024. Ogni giorno, puntualmente, di primo mattino, un vecchio trenino locale raggiunge questa stazione sperduta tra i monti e le valli. È questo l'ultimo punto di raccordo, di congiunzione tra la posta rapida e meccanizzata e quella minore, affidata esclusivamente al tenace e duro lavoro dell'uomo. Il sacco postale, preso in consegna dal primo procaccia, viene subito recapitato alla vicina funivia e consegnato nelle mani del conduttore. Lettere, pacchi e missive di ogni genere viaggiano così, sospesi tra terra e cielo, verso lo sperduto paesino montano. Pochi sono coloro che conoscono questo duro lavoro degli uomini della posta, svolto con tenacia e precisione durante le quattro stagioni dell'anno, dall'alba al tramonto, con il sole o la pioggia, il vento o la neve, essi percorrono chilometri e chilometri arrampicandosi lungo... Pensate cosa ci sta a monte di un velocissimo tweet che voi mi mandate per insultarmi o per dirmi che questa mattina vi state sgargamellando le gonadi perché parliamo di cose antiche, ma non sono poi cose tanto antiche. Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Marco Pizzo è direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma, è la nostra memoria storica riguardo le radici che stiamo sempre più dimenticando. Velocemente, quanto è legato al Risorgimento, all'Italia appena fatta, e la decisione di fare un servizio postale unico e nazionale esattamente l'anno dopo? Beh, è praticamente alla base della costruzione dello Stato unitario. Rispetto agli istanti stati in cui era divisa la penisola, si capì che era necessaria unificare. unificare la monetazione, unificare i pesi e le misure, perché non c'era neanche un metro unico, e le poste rappresentavano, e questo è bene ricordarlo, fino a pochissimo tempo fa, l'unico modo di comunicare tra le persone. Scrivere era l'unico modo per parlarsi, perché non c'era neanche il telefono. E noi parleremo con Pizzo tra poco di quando in realtà l'Italia era stata fatta, ma gli italiani parlano lingue totalmente diverse. Un italiano a latitudini distanti era un altro mondo, e fu la prima guerra mondiale il vero grande unificatore della lingua degli italiani. Si trovavano in trincea persone che in realtà sparavano contro lo stesso nemico, ma fra di loro non sapevano cosa dirsi. Non solo, ma l'unico modo per comunicare a casa era scrivere quelle cartoline che si chiamano le cartoline in franchigia, in cui loro, in un italiano sgrammaticato, semidialettale, dicevano come stavano, dove stavano e di che cosa avevano bisogno. Mauro De Palma, buongiorno. Buongiorno a tutti. So che posso usare poco del suo tempo, perché questa mattina, questi giorni, le Poste Italiane festeggiano i loro 150 anni aprendo il loro archivio storico. Rispetto a quello che ha già detto Marco Pizzo, quali sono stati i passaggi fondamentali che hanno portato l'Italia ad avere un paese con un servizio postale unico e unificato? Guarda, il primo passaggio sicuramente l'unificazione delle diverse amministrazioni postali nelle nuove regie poste, che tra l'altro seguirono un po' l'impronta piemontese, ma la cosa più importante fu l'affermazione che era un servizio pubblico e che impegnava le poste dell'epoca a garantire servizio in tutta Italia a parità di condizioni economiche. Anche quando non gli conveniva, diciamo la verità. Assolutamente, perché se negli anni 50 abbiamo ascoltato l'audio di quel filmato, era faticoso portare la posta in alta montagna, ci possiamo immaginare nel 1800, nella seconda metà dell'Ottocento, quando le strade erano infestate da brianti e non erano strade, erano tratturi, erano sentieri, erano percorsi. L'altra cosa importante è la tariffa unica, perché in un paese come l'Italia, stretto e lungo con delle isole, dire che spedire una lettera da Milano a Bari o da Bari a Foggia aveva lo stesso prezzo voleva dire garantire la massima facilità di comunicazione da un capo all'altro del paese. Prima c'era un libero mercato, diciamo, uno si affidava a... C'erano tante aziende, amministrazioni postali delle diversi stati preunitari, e ogni stato preunitario, prima dell'unità d'Italia, si regolava un po' come voleva. La grande innovazione fu proprio quella di capire subito l'importanza di mettere in rete il paese, come è stato detto prima, attraverso le lettere, le cartoline, i telegrammi, i pacchi. Fu una cosa importante sotto il profilo culturale, perché gli italiani impararono a parlarsi, a scriversi, a conoscersi, e impararono anche l'italiano. È una cosa importante sotto il profilo economico, perché con i pacchi, con il vaglia, si favorì lo sviluppo economico del paese in un momento cruciale. Ecco, Mauro De Palma, un'altra cosa che a me ha colpito, che in realtà si sancì per la prima volta forse quello che oggi sembra un diritto fondamentale, anche un argomento di profondo e lacerante dibattito, la riservatezza, quella che oggi chiamiamo privacy. Per la prima volta gli italiani avevano la garanzia che comunque la loro corrispondenza era coperta, l'affidavano a un servizio che garantiva anche la segretezza, la riservatezza, il fatto che nessuno lungo la strada avrebbe sbirciato la tua lettera, o almeno così era garantito. Assolutamente vero, c'era proprio una promessa, detta promessa di taciturnità, che impiegava gli impiegati delle poste, come dire, giuravano che non si sarebbero mai intromessi in quelle comunicazioni, in quegli scambi di lettere, di vaglia, eccetera, eccetera, tra i vari clienti, tra le varie amministrazioni, eccetera. Un obbligo che è sempre stato rispettato e che oggi ha un risvolto diverso, perché Poste è molto impegnato nei progetti di cyber security, ci sono le transazioni online, scambi di mail, posta elettronica certificata. Le poste di oggi garantiscono la stessa riservatezza di allora. Però non è che fate più giurare come allora? Beh, no, almeno qualcosa è cambiato, no? Sentiamo Gianfranco, l'ascoltore Gianfranco. Gianfranco, buongiorno. Beh, signor Nicoletti. Sì. Allora, la mia piccola esperienza, a proposito di quanto si diceva prima della riservatezza delle poste e delle buste, io mi ricordo, ho fatto qualche esperienza militare nel 1970, e i miei colleghi del meridione soprattutto ricevevano posta regolarmente, e dentro questa busta si poteva trovare, non dico di tutto, ma cose abbastanza interessanti, come dire qualche sigaretta, visto che comunque le sigarette sono sempre state leggere, potevano viaggiare con le buste, se non a volte, ad esempio ciocche di capelli, se non addirittura qualcosa di ancora più personale e di fisico, ecco. Cioè, diciamo, ciuffi di peli intimi. L'ha detto lei, sì. Vabbè, ogni cosa ha il suo nome. Quindi esiste questa usanza, si tagliavano un pezzo di baffo e lo mandavano al fidanzato dentro la busta. È una cosa strana, però dal punto di vista antropologico ha un senso. Marco Pizzo, accadeva nei sacelli segreti dei musei del Risorgimento che nella posta fra militari delle nostre grandi guerre e famiglie ci fosse qualcosa di simile, messaggi d'amore così intensi che avevano anche il feticcio? Sicuramente era presente questa cosa, ma la cosa interessante è che noi abbiamo tante lettere indirizzate a Garibaldi in cui veniva proprio chiesto ciocche di capelli, e la mitologia risorgimentale dice che le missive di Mazzini, che erano quanto di più segreto esiste, per provare che quelle non fossero intercettate, Mazzini metteva dentro la lettera un suo capello. Un suo capello. Era la prova, il sigillo di validità. Il capello di Mazzini era talmente riconoscibile che tutti... Che se c'era era vera la lettera, se non c'era non era vera la lettera. Molto interessante. Pasqua, buongiorno. Buongiorno a lei. Le racconto... facevo corrispondenza con un ragazzino, avevo 13 anni, a Saigon, perché mi ribellavo a quello che stava accadendo in giro per il mondo, e l'unica cosa era queste lettere bellissime, azzurrine, che ci venivano via aerea. E dunque lui, dopo per anni l'ho avuta, dopo almeno l'ho più sentita, è iniziata la guerra, lui mi raccontava di quando dalla sua terrazza di Saigon vide il primo giorno di guerra, per giorni, per mesi e per qualche anno andammo avanti, e mi scriveva tutto. E dunque io ero una ragazzina ribelle, poi diventai figlia dei fiori e via via col movimento delle donne, ribellandomi, e questa corrispondenza fu magica, mi cambiò la vita. E oggi attraverso quale supporto si ribella? Ancora adesso faccio gruppi con le donne, soprattutto le donne che fanno politica, ricordando e trasmettendo cosa noi abbiamo e cosa le donne di altri paesi. Per esempio, nessuno sa che è stato Olympe de Gouges che le hanno tagliato la testa perché si ribellava e voleva il voto alle donne. E dopo una settimana che le hanno tagliato la testa, il voto delle donne, e cittadine, siamo cittadine per Olympe de Gouges, questa donna francese, e nessuna delle mie donne e amiche che fanno politica in giro, eccetera, eccetera, lo sa. Dunque trasmetto tutte queste cose qua che ho letto, che ho scritto, che ho imparato, perché è terribile, lo faccio sempre così, in ogni maniera, comunicando in questa maniera. Sì, le auguro anche allegria ogni tanto. Francesco. Buongiorno Gianluca. No, interessante quello che ha detto Pasqua, perché in realtà è il corrispondente di oggi di un blogger che comunica da alcune zone particolari e crea un filo di comunicazione alternativa rispetto ai canali ufficiali. Allora hanno le lettere azzurrine della posta aerea. Francesco. Sì, eccomi. Voglio raccontare questa mia piccola esperienza, certamente farà un po' sorridere. Però mi ricordo tantissimo, io sono affezionato a questo ricordo, e di questo mi scuso con le poste, perché quando ero militare, 71, mi ricordo, 69, ci scrivevamo con la mia moglie attuale, io dovevo aver usato lo stesso francobollo, io e lei, per mesi, perché ci spalmevamo sopra il francobollo il sapone un po' sciolto. Ah, in modo che il timbro non rimanesse. Sì, il timbro, poi ciascuno di noi lo raschiava. E poi lo rispediva, questo francobollo andava avanti e dietro. No, per farci capire, ma negli anni 70 c'era una congiuntura così forte che anche il prezzo di un francobollo... Sì, in effetti è una bella domanda che mi sta facendo. Perché però, che ne so, era una trasgressione. Tanto per fregare le poste, ecco, quello era il piacere. Sì, mi dispiace di averlo fatto. Ma... Ogni volta ungevate il francobollo di mano in mano e questo era... Non è che non c'era reddito, non c'era niente. Ogni tanto mia moglie mi mandava una 1000 lire, sai, nella... Infilata dentro la busta. Sì, niente capelli o cose simili. No, mi è arrivata, mi pare che una volta sola non è mai arrivata, perché sai, c'era qualcuno che si metteva contro luce. Forse c'è sempre qualcuno che si mette contro luce quando uno è militare, sì, con la moglie, succede. Sì. Mauro De Palma, rispetto a queste telefonate, la posta aerea è un ricordo, ecco, che mi è balzato alla mente adesso, nominato dalla signora che scrive a Saigon, ma ci sono anche altre forme state nella storia delle poste italiane in cui la velocizzazione, la tecnica ha cominciato a far capire che in realtà potevamo avere anche delle reti di comunicazione più efficienti, che la lettera cammina con il procaccia o con l'alpino. Mi viene in mente la posta elettronica, poi quando ci fu la posta pneumatica, quando ci fu Marconi che si inventò il telegrafo, divenne poste e telegrafi, ci fu una maniera nuova per mandare comunicazioni veloci. Sì, la cosa più importante direi subito il radiotelegrafo, come era chiamato all'epoca, perché permetteva di trasmettere un messaggio senza passare dai cavi telegrafici tradizionali che si venivano stesi da un capo all'altro del paese, da un continente ad un altro, e che la solfedine poteva crocodere. In pochissimi istanti il messaggio arrivava a destinazione, veniva stampato e poi consegnato dal fattorino. All'inizio il paese era così fiero di questa invenzione che i telegrammi presero il nome di Marconigrammi, dal nome di Guglielmo Marconi naturalmente. Subito dopo la posta pneumatica, che era attiva in alcune città italiane, delle condutture stese nella città che collegavano i principali uffici, le cassette di impostazione, per cui uno imbucava la lettera, arrivava in un ufficio messo in alcuni bossoli, l'aria sparava questi bossoli nelle condutture e lo faceva arrivare al più vicino punto di recapito. È una specie di web materiale in realtà, perché c'era una rete sotterranea di tubature fra gli uffici, fra i luoghi del lavoro delle grandi città, in cui arrivava velocissima questa posta pneumatica. Le dirò di più, il termine web è corretto, perché a Roma queste condutture sono utilizzate oggi da un'azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni, che ha steso dei cavi, e attraverso quei cavi oggi viaggiano i messaggi di posta elettronica, dalla posta pneumatica alla posta elettronica nelle stesse condutture. Ah, quindi le condutture della posta pneumatica di Roma sono servite per il cablaggio, per far passare le reti attuali? Esattamente. Ah, beh, molto interessante. Marco Pizzo, torniamo all'aspetto di mettere in parallelo il risorgimento e la creazione dello Stato italiano e le poste. Ho già citato la prima guerra mondiale, la grande guerra è stato un momento fatale in cui ci si è resi conto di quanto fosse importante poter scrivere lettere o soprattutto cartoline, come hai detto te. L'Italia si è trovata improvvisamente in un grande crogiolo di etnie, anche se il termine è brutto, ma di lingue, di abitudini diverse, unite verso un solo scopo. Cosa accade riguardo alla posta in quel periodo? Accade una vera e propria rivoluzione, perché la posta innanzitutto viene considerata l'unico modo per unire non solo le varie parti d'Italia, cioè i soldati che erano al fronte, ma anche chi stava in prigionia. I prigionieri gli era assicurato comunque il servizio postale, e le reti dei lettere, per esempio, scritte da questi campi di prigionia sono state oggi analizzate proprio come dei modelli linguistici, perché vengono viste come la genesi di una nuova lingua in cui finalmente chi aveva fatto la scuola elementare, perché ricordiamolo, l'istruzione obbligatoria coincide quasi con la nascita delle poste, quindi saper scrivere significa anche iniziare a utilizzare le poste. E la cosa fondamentale è che anche l'attività postale durante la Grande Guerra vide una presenza massiccia delle postine, che presero il posto di un lavoro che fino allora era stato maschile. Eh sì, perché gli uomini erano in guerra e cominciarono le donne a essere postine, quindi l'emancipazione passa attraverso la guerra. Astolfo. Sì. Pronto? Sì. Buongiorno. Dunque, sono Astolfo di Casatenovo Lecco. Piccola esperienza del servizio postale. Nel lontano 68 ero militare a Pisa. Mio fratello mi ha mandato 5.000 lire tramite lettera, però per garanzia che arrivassero, non si è fidato, li ha tagliati a metà. La prima metà mi è arrivata, la seconda metà non mi è mai più arrivata. Ah, in due spedizioni. Sì, sì. Infatti si diceva che qualcuno intanto guardava la corrispondenza in trasparenza e se vedeva qualcosa la faceva sapere. Vabbè, se ne prese metà, aspettava l'altra metà. Quindi, sì. Quindi non avrete mai le 5.000 lire. Questa è una cosa che bisogna capire, e mi piacerebbe avere altre testimonianze sul passaggio di denaro attraverso le buste. Sì, perché già c'era un'ivaglia, già c'era possibilità, ma si faceva prima, era più sicuro, e poi c'era questo senso di segretezza legato alle transizioni economiche. In realtà è un nostro vizio antico. Un momento, signora, un momento. Scusi, lei spedisce una lettera? Perché? Non si vede? E non si vede il numero, mia cara signora, il numero di codice di avviamento postale. Senta, le mie lettere sono sempre arrivate senza mettere mano al codice. Signora, scusi, sa, ma la sua lettera è diretta a Mantova. Non mi sembra una gran fatica cercare qui il numero di Mantova. Ecco, 4600. E così la sua lettera può arrivare prima. Ma il codice postale è tutto qui? Tutto qui. Basta scrivere prima della località di destinazione il numero che risulta da questo libretto. Mi creda, signora, il lavoro di smistamento delle poste è veramente pesante, complesso, aumenta ogni giorno. E in attesa dell'avviamento meccanico della posta, questo numero di codice può semplificare le operazioni in maniera sostanziale. Sì, ma veramente... Scusi, parlo io. Già in altri paesi europei, come la Svizzera o la Germania, il sistema ha dato risultati... Questo era Corrado che faceva uno spot per spiegare agli italiani di usare il codice di avviamento postale. Fu anche un'altra grande innovazione che permetteva di identificare immediatamente il luogo. Ci misero un po' per capirlo, perché allora non c'era la rete, non c'era internet, bisognava avere dei manuali stampati e capire, cercare esattamente quella località sotto quale codice postale fosse. Poi in realtà ci siamo arrivati. Marco Pizzo, ricordo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento. Qual è stata l'importanza dell'ufficio postale nella realtà minimale dei piccoli comuni, dei piccoli centri in Italia? Le poste rappresentavano proprio lo Stato. Nei piccoli centri, ma parliamo dei centri quelli sperduti in montagna con pochissimi abitanti, lo Stato unitario si presentava proprio con due facce: le poste e i carabinieri, l'ordine e il consiglio. L'ufficio postale rappresentava non solo dove venivano spedite le lettere, dove veniva anche in qualche maniera gestita e amministrata la poca finanza che si metteva da parte, il libretto postale, ma rappresentava lo Stato che dava il lato migliore di sé, cioè che dava il lato che contribuiva a unire le persone, a farle dialogare e mantenerli sempre quel criterio di riservatezza e di affidabilità. Esiste un momento fatale e fatidico nella nostra storia in cui le poste diventano qualcosa di molto grande. Fu quando venne il fascismo e nel 1924 si inventò il Ministero delle Comunicazioni, mettendo insieme poste, telegrafi, telefoni, ferrovie e marina, e divenne un mostro, un gigantesco, in cui avevano, oggi diremmo, l'hardware e il software insieme di tutta la comunicazione. Ecco, l'idea di riservatezza di cui ci parlava prima il signore del Museo Storico delle Poste Italiane, naturalmente con un regime poco poteva avere a che fare, o perlomeno poco poteva corrispondere. Diciamo che però il regime delle poste in qualche maniera resse, cioè la garanzia del messaggio postale era garantita durante le poste, ma nel momento in cui la posta arrivava nella casa, nel condominio, allora agiva il regime, che apriva le lettere, cercando di non fartene accorgere, degli agenti trascrivevano il contenuto della lettera e lo mandavano alla segreteria del duce. Tutto questo è documentato, per esempio, all'Archivio Centrale dello Stato. Ci stanno tutte le lettere inviate o ricevute dai sorvegliati speciali, tra cui anche proprio Benedetto Croce, e si vede proprio cosa scriveva, a chi scriveva, perché venivano intercettate prima che arrivassero le poste. È come un backup della posta elettronica. In realtà c'era un signore che apriva, le sgommava, come faceva? L'apriva col vapore. Col vapore. Le trascriveva e le richiudeva perfettamente. Esatto. E le faceva una copia conforme. E oggi per noi, siccome spesso la lettera originale non c'è più, è l'unica fonte storica. L'atto di spionaggio è la fonte storica attendibile. Trascritta a mano, naturalmente. Esatto. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io sono Marco, chiamo da Como. Volevo raccontare quando ero un po' più piccolo, a 16-17 anni, sono stato in Germania, ho conosciuto una ragazza tedesca evidentemente e abbiamo cominciato una corrispondenza in inglese. Io sono calabrese di origine, quindi dalla Calabria a Colonia in Germania ci scrivevamo ed era bello aspettare questa lettera che arrivava, erano lettere internazionali, quindi passava magari una settimana, ci scrivevamo a stretto giro di posta. Oggi ho 32 anni e ancora ci scriviamo un po' in maniera un po' più diradata, ecco. Ed è ancora bello vedere, ricevere, sentire anche l'odore della lettera, vederla nella... Quindi è una sorta di esercizio retro, un gusto per il vintage, come quelle piccole applicazioni come Instagram che fanno le foto datate. Voi piace avere un contatto legato a un supporto datato? Ma Sì, io oggi sono avvocato, quindi lavoro al computer, sono iscritto a social network, quindi non sono neanche non ho neanche questo gusto dell'antico di che cosa, però abbiamo mantenuto questo rapporto, è bello, abbiamo mantenuto perché ci piace evidentemente. Indubbiamente esiste una poetica anche nella scrittura. Io non sarei più capace di scrivere a mano, poco più, perché ho perso completamente la mano, però decifrare il senso profondo di quello che vuole trasferire una persona attraverso una calligrafia ha anche un senso, si interpretava, si capiva, cercava di costruire lo stato d'animo una persona che scriveva. Certo, non ci metto molto a interpretare lo stato d'animo dell'ascoltatore Raul da Mantova, che ogni tanto mi manda dei messaggi che sono densi, pregni di sentimento. Dice: Nicoletti, perché devi sempre prendere per il culo tutti, credo proprio che il fatto tu abbia un figlio handicappato sia la punizione che ti meriti. Questo è il suo punto di vista. Silvano. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Io ho chiamato perché sono 30 anni che faccio il postino. Attualmente sono ancora attivo in questo momento, esatto, perché io ascolto sempre. Praticamente io ho visto dal passaggio dalla carta copiativa al palmare che ho in mano adesso, però l'idea che hanno della posta, purtroppo i clienti, a parte quelli un po' più romantici, insomma, gli altri ce l'hanno piuttosto negativa, insomma, visto come vanno le cose. In che senso? Guardi, una cosa che mi fa ridere tanto è il fatto che quando porto le bollette, dico sette bollette, e poi quando non le porti dice: ma arriva ste bollette o non arriva ste bollette? C'è un'idea lenta a scomparire, a tramortirsi, legata al fatto che esista un mediatore umano della nostra corrispondenza. Io penso che la maggior parte delle persone è mai abituata che la lettera, il messaggio che arrivi per forma elettronica, cammini con le sue gambe. Non c'è nessun essere umano mediatore con cui prendersela, perché è arrivata, perché non mi ha messo l'avviso, perché mi porti questa cosa che in questo momento per me rappresenta un problema, aprirla, leggerla o riceverla. E quindi lei si fa carico comunque di una figura che secondo me ha una sua forma probabilissima di arcaicismo. Marco Pizzo, legata ai postini, esiste qualcosa nel ricordo del Museo del Risorgimento, a coloro che portano le poste? Beh, noi abbiamo tantissima documentazione che riguarda la loro attività, per esempio. Ma la cosa che mi piace ricordare è che c'è, per esempio, qui a Roma un Museo delle Poste che ha degli oggetti simbolici. Per esempio, l'ufficio postale che esisteva a Messina nel momento in cui si verificò il famoso e disastroso terremoto del 1908-1909. Lo hanno ricostruito? No, l'hanno ritrovato . E c'è addirittura l'orologio fermo sul momento del terremoto. Di tutte le testimonianze esistenti esiste proprio quella del terremoto di Messina, che significa anche che questi oggetti ci fanno capire come la storia d'Italia sia possibile ricostruirla proprio da queste testimonianze materiali, e come l'oggetto fisico, prima l'ascoltatore ricordava la volontà di avere l'oggetto, la carta. Nell'Ottocento i grandi scrittori, i grandi corrispondenti avevano la carta fatta per loro, azzurrina, giallina, fatta apposta per la loro corrispondenza, perché l'oggetto fisico aveva un valore personale. È il grande tema oggi sull'editoria elettronica, che dice che ancora la sensazione tattile di sfogliare un libro sia inimitabile e faccia parte del piacere stesso dell'esercizio della lettura, che dice che in realtà il libro è la sua essenza, quello che contiene. Quindi più me ne posso portare dietro attraverso un tablet, un qualsiasi lettore, meglio è. Paolo. Sì, buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Non so se ne avete parlato, ma... No, è una cosa molto interessante, sì, la dica. Un mio amico, un grosso collezionista di cartoline, lettere, francobolli, eccetera, mi ha fatto vedere che negli anni, diciamo, soprattutto 10, 20, 30, così, c'erano delle cartoline dove c'era veramente un file di backup criptato. Sostanzialmente la cartolina era innocente, c'era scritto tanti saluti da Roma, da Milano, eccetera. E sotto il francobollo gli amanti o i fidanzati si scambiavano dei messaggi, diciamo, abbastanza espliciti, amorosi. Come oggi esistono dei codici criptati dentro delle immagini in cui... Diciamo c'era un file allegato che non era visibile. Certo, se la cosa era abbastanza nota, la prima cosa che io sarei andata a guardare sotto il franco buio. Diciamo era nota, non so adesso a livello di diamanti, non so se di marini. Comunque diciamo tenga conto il francobollo era molto piccolo, quindi questi messaggi erano veramente scritti molto minuti, molto piccoli. Comunque ci sono i collezionisti appunto che cercano le cartoline per con messaggio criptato nascosto. Marco, sì. Pizzo, sai niente di queste di possibilità di chiavi di lettura segrete nella corrispondenza? Sì, erano praticatissime, tant'è che ci sono dei codici segreti proprio per la scrittura e la codifica. E spesso cartoline leggibili da tutti avevano la possibilità di essere lette in più sensi e in più modi, bastava avere la chiave del codice. Questo usava non soltanto in storie d'amore, ma penso anche in corrispondenze più delicate. Sì, diventava, variava il livello, ma la scrittura in codice esiste praticamente da quando inizia la scrittura. Il Vaglia, nel 1818, un sistema di invio di denaro viene adottato per i militari nel Regno di Sardegna. Sorridi soldatino, i tuoi familiari non ti faranno certo restare al verde. Coi primi emigranti che partono per l'America, anche il Vaglia varca l'Oceano Atlantico, diviene internazionale. È un canale attraverso il quale i nostri emigrati convogliano i loro risparmi. Gli anni passano e il Vaglia non deve varcare solo un oceano. Eccolo in Europa occidentale, Nord Africa, Somalia, India, Australia, Giappone. 80024, 0024, parliamo del poste, del servizio postale, di questo passo doppio fra la necessità, la volontà, l'emancipazione che corrispondeva a potersi mandare a distanza dei messaggi, del denaro, in questo caso si parla di vaglia. Quanto le rimesse degli immigrati passano attraverso i vaglia postali, Marco Pizzo? Beh, era una entrata fondamentale per lo Stato italiano del Novecento. Ma la cosa che spesso si dimentica è che gli emigrati mandavano quello che oggi è praticamente Facebook, cioè mandavano delle loro foto cartoline in cui dietro scrivevano, così facevano vedere con la loro fotografia come stavano, dove stavano, e dietro scrivevano il messaggio. Era una maniera totale e condivisa per esprimere tutto attraverso un unico messaggio postale. Beh, un messaggio multimediale a tutti gli effetti, nell'accezione del tempo. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, io sono da parte di madre imparentato con la famiglia dei Tasso o Taxis che hanno fondato il servizio postale in tutta Europa a partire da Cornello dei Tasso, un villaggio della Val Brembana, e creando veramente una multinazionale familiare in tutta Europa. Non avevo questa notizia, ce lo spieghi meglio che mi interessa, c'è una famiglia che ha creato il servizio postale in tutta Europa? Sì, i Tasso. Quale membro era famoso anche Torquato Tasso, il letterato, no? E veniva da Cornello, dalla Val Brembana, un piccolo paesino, e nel 400 cominciò a organizzare il servizio postale in tutta Europa, creando una multinazionale, come dicevo prima, con centinaia di stazioni di posta, 30.000 cavalli, eccetera. E i vari regni della famiglia avevano in gestione dei tratti postali, che erano poi considerati dei veri feudi postali. E quello di mia madre, ad esempio, aveva il tratto Verona-Brennero-Innsbruck. Questo fino a quando è durato questo? Diciamo, è durato fino a seconda delle zone, fino alla seconda metà dell'Ottocento. Difatti mia nonna non metteva il francobollo, metteva un sigillo. Ah, perché era Tasso e poteva mandare gratis la posta. Poteva mandare quando poi era stata nazionalizzata. Però interessante. Quindi per voi la legge del 1862 è stata una iattura, la fine di un monopolio? No, hanno avuto sia fine al monopolio, poi hanno avuto anche un sacco di indennizzi in denaro, ovviamente. Però pensi che nel 1500, durante il Concilio di Trento, una lettera da Trento a Milano arrivava in 3 giorni e da Trento a Roma in 6, e con la stagione buona naturalmente. E la posta la pagava chi le riceveva. Che così il corriere era interessato a consegnare. Quello che ci diceva prima il signore delle poste italiane, il grande elemento, diciamo, di democrazia fu proprio quello che tutti pagavano la stessa tariffa. Se io non ho da corrispondere al postino il prezzo, non devo leggere la lettera. Marco Pizzo, questo signor Tasso ha qualcosa da domandare, perché è interessante sapere se nei loro archivi personali e familiari c'è qualcosa che ti interessa dal punto di vista risorgimentale. A me interesserebbe proprio sapere se esistono tracce di questo passaggio, cioè di documentazione ottocentesca che costituisca il tramite tra il passaggio dalla privatizzazione delle poste e la nazionalizzazione. Beh, questo c'è senz'altro. Però quello che voglio dire, che è anche molto interessante, che ad esempio il nome taxi viene da taxi, è il nome che è un conosciuto come parola in tutto il mondo, perché poi i tasso o taxis, appunto, perché è una germanizzazione del cognome, avevano anche il trasporto di passeggeri oltre che della posta con le diligenze, e sulla porta delle carrozze c'era scritto taxis con lo stemma, da cui taxi. Quindi voi potreste rivendicare l'etimo della vostra stirpe e tutti i taxi del mondo? No, assolutamente no, però è molto curioso sapere l'origine di questo nome. No? Taxi viene adoperato dalla Cina all'America Latina, agli Stati Uniti, è una parola diventata internazionale e forse è quella più conosciuta e più usata in tutto il mondo, e più compresa. Io pensavo avesse un etimo greco, pensi, invece quanto mi sbagliavo. Io, se la metterò in contatto con il direttore del Museo del Risorgimento, si sta leccando i baffi, voglio parlare solamente con lei. Se ce lo consentirà, vi creerò questo tramite. Gloria. Buongiorno Gloria. La mia nonna era la postina di Val di Castello Carducci e nella sua zona comprendeva Sant'Anna di Stazzema e altri paesi sui monti. E lei si recava una volta alla settimana, ogni 10 giorni, a piedi, in bicicletta, come... Pronto? Sì, la sto ascoltando. Sì, e niente, volevo così ricordare questo fatto, perché essendo del paese conoscevano i sentieri, conoscevano le... Scusa, nonna in bicicletta faceva la postina in zone disagiate di montagna. Sì, sì, e... In quei giorni c'erano movimenti molto, molto strani di soldati tedeschi che andavano, venivano, e quindi fu forse l'unica volta, quel 12 agosto, che la mia nonna non andò a portare la posta a Sant'Anna. Ecco, volevo ricordare questo ricordo di famiglia. Questo episodio, solamente questo. Grazie, grazie. Leonardo. Leonardo è caduto e siamo finiti. Beh, la postina in tempo di guerra è una figura, è un'iconografia quasi classica. Esiste anche un ruolo all'interno proprio dei partigiani italiani, che era proprio la postina. Perché spesso alle postine ufficiali veniva dato anche il compito di essere le postine dei partigiani che proprio stavano in montagna. Era proprio un ruolo codificato e gestito. E spesso, come dice bene la signora, erano le uniche persone che poi avevano la possibilità di accedere dove... I servizi militari non facevano accedere, e quindi consentivano di avere delle notizie che venivano poi diffuse dalla testimone oculare. Si era ritornati a un aspetto quasi medievale di comunicazione. Sai, alla base di tutto c'è il concetto di rete. La postina era quella che poteva accedere ad alcuni punti di questa rete non permessi agli altri, quindi portava, oltre a delle informazioni che venivano considerate importanti, il cui diritto non veniva negato, perché si poteva passare la postina, vuol dire che il diritto a avere corrispondenza, comunque anche in tempi difficili, guerra e di occupazione, viene riconosciuto, e aveva le chiavi di accesso a quelle località lì, quindi era una figura fondamentale. Tornando al discorso prima del signor Tasso, che ricordava il servizio postale dell'Italia antica, i corrieri postali avevano anche un compito proprio di spionaggio economico, perché dicevano, per esempio, quali navi erano arrivate nel porto di Venezia, a Roma, prima, decretando il livello e le variazioni dei prezzi dei beni. Grazie Marco Pizzo, è stato interessante capire cosa ci ammonta la nostra velocità, la nostra capacità di immediatezza nel comunicare, nel sapere, nel ricevere. A lunedì.